Capitolo 41. Si ammassano le nuvole. Mrs. Gibson tornò con tanti racconti su Londra a tinti di rosa. Lady Kemnor era stata cortese e affettuosa, così commossa per il fatto che sia andata a trovarla così presto, non appena è tornata in Inghilterra. Lady Harriet, incantevole e devota alla sua vecchia istitutrice. Lord Kemnor, sempre caro e cordiale come al solito, e riguardo ai Kirkpatrick, neanche la casa del Lord Cancelliere era più magnifica della loro, e la toga di seta dell'avvocato della corona fluttuava sopra cameriere e valletti. Anche Cinzia aveva attirato molta ammirazione per il suo abbigliamento. Mrs. Kirkpatrick aveva sciorinato abiti da ballo, coroncine, deliziosi cappelli e mantelline, come una fata madrina. Il povero dono di 10 sterline offerto da Mr. Gibson si ridusse a proporzioni molto esigue se paragonato a tanta munificenza. «E le vogliono così bene. Non so quando la riavremo a casa», concluse Mrs. Gibson. «E ora, Molly? Cosa avete fatto, papà e tu? Nella tua lettera mi sei sembrata molto allegra. Non ho avuto tempo di guardarla a Londra, così me la sono messa in tasca e l'ho letta in carrozza durante il viaggio di ritorno. Mamma mia cara bambina!» Sei così fuori moda con quel vestito stretto e i capelli tutti disordinati e quei ricci. I ricci sono cosa passata. Dobbiamo acconciarti i capelli diversamente, continuò, tentando di lisciare le onde scure di Molly. Ho mandato a Cinzia una lettera arrivata dall'Africa, disse Molly timidamente. Avete saputo qualcosa su ciò che diceva? Oh sì, povera figlia. L'ha molto rattristata, credo. Ha detto che non aveva voglia di andare alla festa di Mr. Rawson, prevista quella sera, per cui Mrs. Kirkpatrick le aveva regalato l'abito da ballo. Non c'era davvero nulla per cui fosse necessario preoccuparsi. Roger aveva solo scritto di aver avuto un altro attacco di febbre, ma ormai stava meglio. Diceva che tutti gli europei si debbono acclimatare con la febbre in quella parte dell'Abissinia dove si trova lui. «E lei c'è andata?» chiese Molly. «Sì, certo!» Non è un fidanzamento, e anche se lo fosse, non se ne sa nulla. Pensa se lei fosse andata a dire: un giovanotto che conosco è stato malato per qualche giorno in Africa 2 mesi fa, perciò stasera non voglio andare al ballo. Sarebbe sembrato che stesse ostentando un sentimento, e se c'è qualcosa che io odio, è proprio questo. Penso che non si sarà divertita granché, osservò Molly. Oh, sì, invece. Il suo abito era di mussolina bianca, bordato di lilà, e lei aveva davvero un aspetto... A una madre sarà consentita un po' di naturale parzialità. Meraviglioso. Ha ballato ogni danza, anche se era praticamente una sconosciuta. Sono sicura che sia divertita, visto come ne ha parlato la mattina dopo. Mi chiedo se lo Squire ne sia al corrente. Di cosa? Ah, sì, certo. Intendi riguardo a Roger? E penso proprio di no. E non c'è bisogno di farglielo sapere perché non ho dubbi che adesso va tutto bene. E uscì dalla stanza per finire di disfare i bagagli. Molly lasciò cadere il lavoro con un sospiro. Dopodomani sarà trascorso un anno da quando lui è stato qui per proporci di andare a Hurstwood. E la mamma era così infastidita dal fatto che passasse da noi prima di pranzo. Mi domando se Cinzia se ne ricordi chiaramente quanto me. E ora forse... Roger... Vorrei... Prego che tu torni a casa sano e salvo. Come potremmo sopportarlo se... Si coprì il viso con le mani e tentò di smettere di pensare. D'un tratto si tirò su come punta da una velenosa fantasia. Non credo che lei lo ami come dovrebbe, altrimenti non avrebbe potuto. Non avrebbe potuto andare a ballare. Cosa farò se è così? Cosa farò? Posso tollerare tutto, ma non questo. Invece, trovò ardua la sopportazione della lunga angoscia per la salute di Roger. Non era probabile che ricevessero sue notizie almeno per un altro mese, e prima che quel periodo passasse, Cinzia sarebbe stata nuovamente a casa. Molly iniziò a desiderare di riaverla con sé prima di 15 giorni da quando era partita. Non aveva pensato che i continui tête-à-tête con Mrs. Gibson sarebbero potuti essere così faticosi. Forse la salute cagionevole di Molly, conseguente al fatto che negli ultimi pochi mesi era cresciuta molto rapidamente, la rendeva irritabile. Sta di fatto che molto spesso ella doveva alzarsi e lasciare la stanza per recuperare la calma dopo aver ascoltato una lunga sequela di parole, dai toni frequentemente lamentosi e scontenti, piuttosto che allegri, e che alla fine non comunicavano alcuna chiara impressione né dei pensieri né dei sentimenti di chi le pronunciava. Ogni volta che qualcosa non andava per il verso giusto, ogni volta che Mr. Gibson perseverava freddamente in qualcosa a cui la donna aveva obiettato, ogni volta che la cuoca commetteva un errore a proposito della cena o la cameriera rompeva un oggettino fragile, ogni volta che i capelli di Molly non erano acconciati come piaceva lei, o il suo abito non le si confaceva, o l'odore dei pasti pervadeva tutta la casa, o venivano a trovarla i visitatori sbagliati, o quelli giusti non passavano. Insomma, quando qualcosa andava storto, il povero Mr. Kirkpatrick veniva menzionato con rimpianto e dolorosa nostalgia, e anzi, veniva persino rimproverato, perché avrebbe potuto evitarlo se solo si fosse dato pena di continuare a vivere. Quando ripenso a quei giorni felici, mi sembra come di non averli mai valutati come dovevo. Di certo, la giovinezza, l'amore, cosa ci importava della povertà? Mi ricordo che il caro Mr. Kirkpatrick camminò per 5 miglia fino a Stratford per comprarmi un muffin. Ne avevo così voglia dopo la nascita di Cinzia. Non intendo lamentarmi del caro papà, ma non penso, beh, forse non dovrei venire a dirlo a te. Se solo Mr. Kirkpatrick si fosse preoccupato di quella sua tosse. Ma era così ostinato. Gli uomini lo sono sempre, credo, ed è stato proprio egoista da parte sua. Ritengo solo che non considerò lo stato derelitto in cui mi avrebbe lasciata. Io ne soffrii più della gran parte delle persone, perché sono sempre stata di natura così sensibile e affettuosa. Mi ricordo una poesiola di Mr. Kirkpatrick, in cui il mio cuore veniva paragonato alla corda di un'arpa che vibra alla minima brezza. Pensavo che le corde dell'arpa richiedessero delle dita molto forti per suonare, osservò Molly. Mia cara bambina, in te non c'è più poesia di quanta ce ne sia in tuo padre. E guarda quei capelli, sono più brutti che mai. Non puoi bagnarli in acqua per disfarti di quelle onde, di quei boccoli. Quando si asciugano diventano solo più ricci, protestò Molly, mentre lacrime improvvise le salivano agli occhi per il balenare di un ricordo, come un quadro che si sia visto tanto tempo fa e si sia dimenticato a lungo. Una giovane madre lava e veste la sua figlioletta, la siede non ancora tutta vestita sul suo ginocchio e le arriccia con amore gli scuri boccoli bagnati, avvolgendoseli intorno alle dita, e poi, in un'estasi d'affetto, bacia la testolina ricciuta. L'arrivo delle lettere di Cinzia costituivano un evento molto piacevole. Ella non scriveva spesso, ma quando giungevano, le sue missive erano tollerabilmente lunghe e molto spiritose. Si faceva continuamente riferimento a nuovi nomi che a Molly non comunicavano nulla, sebbene Mrs. Gibson tentasse di illuminarla con commenti quali: Mrs. Green, ah, è la bella cugina di Mr. Jones che vive a Russell Square con quel suo marito grasso. Possiedono una carrozza, ma non sono sicura se sia Mr. Green a essere il cugino di Mrs. Jones. Possiamo chiederlo a Cinzia quando torna. Mr. Henderson, certo, un giovanotto con i favoriti neri. Un tempo era allievo di Mr. Kirkpatrick o di Mr. Merry. So che hanno detto che ha studiato legge con qualcuno. Ah sì, sono le persone che sono passate in visita il giorno dopo il ballo di Mr. Rawson e che hanno ammirato Cinzia così tanto, senza sapere che io ero sua madre. In effetti era vestita molto bene, in satin nero. Il figlio aveva un occhio di vetro. Era un giovanotto molto compito, Coleman, sì, ecco come si chiamava. Nessuna notizia di Roger, se non qualche tempo dopo il ritorno di Cinzia dal soggiorno londinese. Ella rincasò più fresca e più bella che mai, ben vestita grazie al proprio gusto e alla generosità della cugina, ricca di aneddoti divertenti sulla vita allegra che aveva condotto, eppure niente affatto malinconica per essersela lasciata alle spalle. Porta a casa ogni sorta di raffinati e begli accessori per Molly, un nastro per il collo all'ultimissima moda, il modello per una mantellina, un elegante paio di guanti leggeri, ricamati come Molly non aveva mai visto prima e molti altri piccoli segni del fatto che si era ricordata di lei durante la sua assenza. Eppure, In un modo o nell'altro, Molly sentiva di non avere mai ricevuto le totali confidenze di Cinzia, perché nonostante tutta quell'apparente franchezza e ingenuità nell'atteggiamento, ella era molto riservata e reticente. Cinzia stessa lo sapeva bene, rideva spesso di questo con Molly, ma quest'ultima aveva scoperto da sola quanto fosse vera questa asserzione. Però non se ne diede gran pena, anche lei sapeva che nella propria mente fluttuavano troppe riflessioni e troppi sentimenti che non avrebbe mai pensato di rivelare a nessuno, eccetto forse, se mai fosse ricapitato che passassero tanto tempo insieme, al padre. Sapeva che Cinzia le nascondeva più che riflessioni e sentimenti, che le nascondeva dei fatti. Tuttavia Molly pensava, questi fatti potevano coinvolgere dettagli di turbamento e di sofferenza, potevano essere collegati alla disattenzione di sua madre e in generale potevano essere di una natura così dolorosa che sarebbe stato un bene per Cinzia dimenticare completamente la propria infanzia, invece di continuare a ripercorrerla con il racconto dei suoi problemi e delle sue lagnanze. Perciò ora non era causa di una mancanza di confidenza che Molly percepiva il distacco da lei. Era perché Cinzia evitava, anziché cercare, la sua compagnia, perché i suoi occhi scansavano lo sguardo diretto, serio, amorevole di Molly, perché c'erano argomenti dei quali evidentemente le seccava parlare, non cose particolarmente interessanti, per quanto Molly potesse comprendere, ma sembrava quasi che questi si avviassero a diventare dei tabù. Molly provava una sorta di piacere, denso di sospiri, nel notare il modo differente, mutato, in cui Cinzia parlava di Roger. Ora si riferiva a lui con tenerezza. Povero Roger lo chiamava, e Molly pensò che così dicendo ella alludesse alla malattia menzionata nella sua ultima lettera. Una mattina, una settimana dopo che Cinzia era tornata a casa, proprio mentre stava uscendo, Mr. Gibson corse di sopra in salotto, col cappello in testa, gli stivali, gli speroni ai piedi, e rapidamente posò un libello aperto davanti a lei. Le indicò con il dito un passaggio in particolare, ma senza dire una parola, e in fretta lasciò la stanza. I suoi occhi scintillavano e la sua espressione era lieta oltre che compiaciuta. Molly notò tutto questo e notò anche il rossore sul volto di Cinzia mentre leggeva ciò che le era stato segnalato. Dopodiché la giovane mise il libricino un po' da parte, senza però chiuderlo, e riprese a lavorare. Cos'è? Posso vedere? Chiese Molly, tendendo la mano verso l'opuscolo che si trovava abbastanza vicino. Non lo toccò però fino a che Cinzia non ebbe detto. Certo, non credo che ci siano grandi segreti in una rivista scientifica piena di resoconti e di conferenze. E spinse un po' il libello dalla parte di Molly. Oh, Cinzia, esclamò Molly senza fiato mentre leggeva, non sei orgogliosa. Si trattava infatti degli atti del convegno annuale della Geographical Society, in cui Lord Hollingford aveva letto una lettera di Roger Hamley speditagli da Rakuba, un distretto dell'Africa che nessun viaggiatore europeo colto aveva mai visitato fino ad allora, e in merito al quale Mr. Hamley descriveva molti curiosi dettagli. La lettura di questa lettera era stata accolta con grandissimo interesse e molti fra gli oratori successivi avevano espresso alti elogi nei confronti dello scrivente. Ma Molly avrebbe dovuto conoscere meglio Cinzia e non aspettarsi una risposta che corrispondesse ai sentimenti che avevano suscitato quella domanda. Ammesso che Cinzia fosse mai orgogliosa, felice, riconoscente oppure indignata, tormentata da rimorso, addolorata o dispiaciuta, il fatto stesso che un'altra persona si attendesse che lei provasse tali sensazioni era sufficiente a impedire che le esprimesse. Temo di non essere meravigliata quanto te, Molly. Inoltre, per me non è una sorpresa, almeno non del tutto. Ho saputo del convegno prima di lasciare Londra. Se ne è parlato molto nella cerca di mio zio. Di certo non ho sentito tutte le belle cose che si dicono di lui qui, però, sai, sono solo modi di dire, non significano nulla. Bisogna che qualcuno faccia dei complimenti quando un lord si prende la briga di leggere ad alta voce una delle proprie lettere. Assurdità, commentò Molly. Sai che non credi a ciò che stai dicendo, Cinzia? Cinzia le indirizzò quel grazioso cenno con le spalle che era l'equivalente di una scrollata in Francia, ma non alzò la testa dal cucito. Molly iniziò a rileggere l'articolo. Beh, Cinzia, ci saresti potuta essere. C'erano anche delle donne. Dice, molte signore erano presenti. Oh, non avresti potuto partecipare? Se agli amici di tuo zio interessassero queste cose, magari qualcuno avrebbe potuto portartici. Forse, se gliele avessi chiesto, ma penso sarebbero rimasti piuttosto sorpresi da questa mia improvvisa inclinazione per la scienza. Avresti potuto spiegare a tuo zio come stanno veramente le cose e lui non avrebbe parlato se tu non l'avessi voluto, ne sono certa. Così avrebbe potuto darti una mano. Una volta e per sempre, Molly, disse Cinzia, ora riponendo il lavoro e parlando con brusca autorità. Impara a capire che è, ed è sempre stato, un mio desiderio che non si parli e non si faccia menzione della relazione tra me e Roger. Quando arriverà il momento giusto, sarà resa nota a mio zio e a chiunque altro ne sia coinvolto, ma non ho intenzione di creare problemi o di mettermi nei guai, neanche per ascoltare i complimenti che gli vengono rivolti, lasciando trapelare la cosa anzitempo. Se vi sarò costretta, allora preferirò interrompere tutto e farla finita. Non posso stare peggio di come mi sento ora. I suoi toni arrabbiati, prima che terminasse la frase, si erano tramutati in un lamento demoralizzato. Molly la guardò sgomenta. Non riesco a capirti, Cinzia, affermò dopo un po'. No, direi proprio che non ci riesci, ribatté Cinzia con le lacrime agli occhi, molto dolcemente, come per farsi perdonare la precedente irruenza. Temo, spero, che non ci riuscirai mai. Un attimo dopo era circondata dalle braccia di Molly. Oh, Cinzia, non ti ho dato il tormento, ti ho addolorata. Non dire che temi che io non ti conosca. Ovvio che hai i tuoi difetti, li hanno tutti, ma penso di volerti ancora più bene proprio per questo. Non so se sono proprio così cattiva, aggiunse Cinzia, sorridendo un po', tra le lacrime che le parole e le carezze di Molly le avevano fatto sgorgare dagli occhi. Mi sono messa nei guai. Sono in un guaio adesso. A volte credo davvero che sarò sempre nei guai. E se mai venissero alla luce, io sembrerò peggiore di quanto realmente sono. E so che tuo padre mi butterà fuori. E io, no, non ho paura che lo farai anche tu, Molly. Ma certo che no, sono. Pensi, Roger, come la prenderebbe? Chiese Molly molto timidamente. Non lo so. Spero che non lo verrà mai a sapere. Non vedo perché dovrebbe, perché tra non molto sarò di nuovo pulita. È successo senza che nemmeno mi rendessi conto che stavo sbagliando. Ho quasi intenzione di raccontarti tutto, Molly. Molly non voleva insistere, anche se desiderava ardentemente sapere per capire come poter offrire il suo aiuto. Ma mentre Cinzia esitava, e forse a dire la verità, si pentiva di aver compiuto anche quel minimo passo verso la concessione di una confidenza, Mrs. Gibson entrò, tutta presa dall'idea di come modificare un suo abito per adattarlo alla moda del momento, come aveva visto a Londra. Cinzia sembrò dimenticare lacrime e problemi per gettarsi a capofitto nella modisteria. La corrispondenza di Cinzia con le cugine londinesi continuò vivace secondo le usanze dell'epoca. In effetti, Mrs. Gibson si lamentava occasionalmente della frequenza con cui arrivavano le lettere di Helen Kirkpatrick, prima che fosse introdotta la posta da un penny. Infatti, era il destinatario a dover pagare, e 11 penny e mezzo 3 volte alla settimana, secondo i conteggi di un'infastidita Mrs. Gibson, ammontavano a una somma tra i 3 e i 4 scellini. Queste lamentele, però, restavano in famiglia. Erano loro a vedere il rovescio dell'arazzo. Hollingford in generale e le signorine Browning in particolare sentirono parlare della entusiastica amicizia di Helen Kirkpatrick con Cinzia e del piacere di ricevere notizie con tanta costanza, veramente incessanti da Londra. È bello, quasi quanto vivere laggiù. Molto meglio, direi, asserì Miss Browning con una certa severità. Ella, infatti, aveva preso tante delle informazioni in suo possesso sulla metropoli dai saggisti britannici e in quegli scritti la città è spesso rappresentata come un centro di dissipazione che porta alla corruzione le mogli e le figlie dei signori di campagna e che le rende inadatte ai loro doveri a causa del costante turbine dei suoi piaceri, non sempre innocenti. Londra era una sorta di declivio della morale che pochi potevano toccare senza esserne contaminati. Miss Browning era stata in allerta, in attesa di vedere qualche segno di deterioramento nel carattere di Cinzia, sin da quando la ragazza era tornata. Ma a parte un maggior numero di accessori di abbigliamento belli e molto confacenti, la signorina non percepì grandi cambiamenti in peggio. Cinzia era stata nel mondo, aveva contemplato il riverbero, il luccichio e le abbaglianti ostentazioni di Londra, Eppure aveva fatto ritorno a Hollingford disposta come sempre a offrire una sedia a Miss Browning, a raccogliere fiori con cui comporre un mazzolino per Miss Phoebe o a rammendarsi i vestiti. Tutto ciò fu attribuito ai meriti di Cinzia, però, e non fu detto per dar credito alla capitale. Per quanto io possa giudicare di Londra, sentenziò Miss Browning, continuando la sua tirata contro la città, trovo che non sia meglio di un borseggiatore o un rapinatore travestito da onesto cittadino. Voglio dire, dove è cresciuto Milord Hollingford? E Mr. Roger Hamley? Il vostro buon marito mi ha prestato gli atti del convegno, Mrs. Gibson, dove si parla a lungo di loro, ed era orgoglioso degli elogi che avevano ricevuto, come se si sentisse simile a loro. Me l'ha detto Febe, perché i caratteri stampati erano troppo piccoli per la mia vista. Era parecchio perplessa per via degli strani nomi dei luoghi, e allora io le ho detto che poteva saltarli tutti, perché tanto non abbiamo mai sentito parlare prima e probabilmente non ci accadrà di sentirli in futuro. Però mi ha letto tutte le belle cose che si dicevano di Milord e di Mr. Roger, e allora io vi chiedo: dove sono stati educati e cresciuti? Beh, a 8 miglia di distanza da Hollingford. Molly o io stessa saremmo potute vivere lì? È tutto un caso. E poi vanno a Londra a parlare dei piaceri delle società intellettuali e della gente altolocata che è un tale vantaggio conoscere. E per tutto il tempo io so che la vera attrazione è data solo dai negozi e dalle commedie. Ma non si tratta né di qui né di là. Tutti noi mettiamo prima avanti il piede migliore. E se abbiamo da offrire un ragionamento che sembra intelligente, lo esprimiamo ad alta voce, da uomini, ma non diciamo nulla della stupidità che alberga nel nostro cuore. Ma vi chiedo, un'altra volta, tutta questa bella società e questi saggi e questi egregi viaggiatori, da dove arrivano? Beh, da parrocchie di campagna come questa. Londra se li tira su tutti, si adorna della loro presenza e poi grida alle comunità che ha derubato: venite a vedere come sono bella! Che bene, proprio! Non ho pazienza con Londra. Cinzia sta molto meglio lontana da lì e sono sicura, Mrs. Gibson, che se fossi in voi non metterei fine a quelle lettere dalla città. Non faranno altro che renderla irrequieta. Ma forse uno di questi giorni lei potrebbe viverci a Londra, Miss Browning, ribatté Mrs. Gibson con un sorriso lezioso. Ci sarà tempo allora per pensare a Londra. Io le auguro un marito onesto di campagna, che abbia abbastanza per mantenersi e un po' da mettere da parte, in aggiunta con un buon carattere. Vada bene, Molly, disse lanciando un'occhiata di fuoco alla ragazza che trasalì. Augura Cinzia un marito che abbia un buon carattere. Ma lei ha una madre che se ne prende cura. Tu no? E quando tua madre era viva, era una mia cara amica. Di conseguenza, io non permetterò che tu ti butti via con chiunque non abbia un passato limpido e trasparente. Vuoi contarci? Quest'ultimo discorso piombò come una bomba nel quieto salottino, tale era la veemenza con cui fu pronunciato. Miss Browning, nel profondo del cuore, aveva l'intenzione di dare un avvertimento contro l'intimità che lei credeva aveva iniziato a formarsi tra Molly e Mr. Preston. Ma poiché casualmente Molly non si era neanche mai sognata un simile legame, ella non poteva neppure immaginare che un'orazione così severa potesse essere rivolta a lei. Mrs. Gibson, che faceva estremamente caso a ogni parola o azione che la toccassero personalmente, e questa la chiamava sensibilità, ruppe il silenzio che seguì al discorso di Miss Browning, dicendo lamentosa: Miss Browning, sono sicura che vi state sbagliando se pensate che una qualsiasi madre potrebbe prendersi cura di Molly più di quanto faccio io. Io non posso pensare che ci sia bisogno che qualcun altro interferisca per proteggerla. E non ho idea del perché abbiate parlato in questo modo, come se noi fossimo tutti nel torto e voi completamente dalla parte della ragione. Questo ferisce i miei sentimenti, sì, proprio. Molly può ben dirvi, infatti, che non esiste una sola cosa o un favore che Cinzia riceva, che non riceva anche lei. E per quanto riguarda il non preoccuparsi di lei, beh, se domani andasse a Londra io mi impunterei di accompagnarle e badare a lei. E non l'ho mai fatto per Cinzia, quando era a scuola in Francia. La sua camera, poi, è arredata esattamente come quella di Cinzia e le lascio indossare il mio scialle rosso ogni volta che lo desidera e anche più spesso se me lo chiedesse. Non riesco a capire cosa intendiate, Miss Browning. Non intendevo offendervi, ma solo dare a Molly un avvertimento. Lei capisce di cosa parlo. No, di certo, fece Molly ardita. Non ho la più pallida idea di cosa stiate parlando. Se stavate alludendo a qualcosa di più rispetto a quanto abbiate detto chiaramente, ovvero che non volete che io sposi un uomo che non ha un buon carattere e che poiché siete stata amica della mia mamma, mi impedireste con tutte le vostre forze di sposare un uomo con un cattivo carattere. Io non sto pensando al matrimonio. Non desidero sposare proprio nessuno, ma se così fosse ed egli non fosse un buon marito, vi ringrazierei se venisse ad avvertirmi. Non mi limiterò ad avvertirti, Molly. Proibirò la cerimonia in chiesa, se ce ne sarà bisogno, dichiarò Miss Browning, quasi convinta della verità chiara e trasparente che Molly aveva affermato. Ella era arrossita da capo a piedi, questo è vero. Però, mentre parlava, i suoi occhi erano rimasti fissi, puntati sul viso di Miss Browning. Fatelo, disse Molly. Bene, bene, non parliamone più, forse ero in errore. Non diremo altro in proposito, ma ricorda ciò che ho detto, Molly, non c'è niente di male in questo comunque. Mi dispiace di aver ferito i vostri sentimenti, Mrs. Gibson, per come stanno le cose con le matrigne, penso che voi stiate tentando di fare il vostro dovere. Buona giornata, arrivederci a entrambe e Dio vi benedica. Se Miss Browning pensava che la sua benedizione conclusiva avrebbe garantito la pace nella stanza che stava lasciando, si sbagliava di grosso. Mrs. Gibson esplose dicendo: Sto tentando di fare il mio dovere. Ah sì? Ti sarei molto obbligata, Molly, se potessi fare attenzione a non comportarti in modo da rendermi oggetto di un'impertinenza simile a quella che ho ricevuto da Miss Browning. Ma io non so cosa l'abbia fatta parlare così, mamma, protestò Molly. Di sicuro non lo so io e non mi interessa neppure, ma so che nessuno mi ha mai parlato di tentare di fare il mio dovere prima. Tentare proprio. Tutti hanno sempre saputo che l'ho fatto, senza dirmelo in faccia con tanta maleducazione. Nei confronti del dovere io nutro quel sentimento profondissimo del quale credo si debba parlare solamente in chiesa e in luoghi altrettanto sacri. Non sono argomenti con cui un semplice visitatore possa mettere gli altri in agitazione, neanche se si tratta di una vecchia amica di tua madre. Come se io non mi fossi curata di te tanto quanto di Cinzia. Insomma, era solo ieri che sono salita in camera sua e l'ho trovata a leggere una lettera che ha messo via in fretta e furia non appena sono entrata. E io non le ho neanche chiesto di chi fosse, ma di certo avrei potuto costringere te a dirmelo. Molto probabile. Mrs. Gibson si teneva alla larga da qualunque conflitto con Cinzia, sicura che alla fine avrebbe avuto la peggio, mentre Molly generalmente si sottometteva piuttosto che iniziare un alterco per far valere la propria volontà. Proprio in quel momento entrò Cinzia. Cosa succede? Chiese in fretta, notando che c'era qualcosa che non andava. Beh, Molly ha fatto qualcosa che ha indotto quell'impertinente della signorina Browning a darmi una lezione sul tentare di fare il mio dovere. Se solo il tuo povero padre fosse sopravvissuto, Cinzia, nessuno mi avrebbe mai parlato così. Una matrigna che tenta di fare il suo dovere, ecco. Così ha detto Miss Browning. Qualunque allusione al padre toglieva a Cinzia ogni desiderio di fare dell'ironia. Fece un passo avanti e di nuovo chiese a Molly quale fosse il problema. Molly, anche lei irritata, rispose: A quanto pare, Miss Browning crede che io sposerò probabilmente un uomo dal carattere discutibile. Tu, Molly, fece Cinzia. Sì, una volta me ne ha già parlato. Sospetto che si sia messa in testa un'idea a proposito di Mr. Preston. Cinzia piombò a sedere. Molly proseguì. E ha parlato come se la mamma non badasse abbastanza a me. Penso sia stato piuttosto esasperante. Non piuttosto, ma molto, molto impertinente. Precisò Mrs. Gibson, un po' addolcita dal fatto che Molly riconosceva la ragione della sua lagnanza. Cosa può averle messo in testa una cosa simile? Chiese Cinzia molto tranquillamente, prendendo il cucito. Non lo so, rispose la madre, rispondendo lei alla domanda, come era solita fare. Di sicuro io non approvo sempre Mr. Preston, ma anche se stava pensando a lui, beh, lui è molto più piacevole di lei e preferirei sempre le sue visite piuttosto che quelle di una simile vecchia zitella. Non so se stesse pensando a Mr. Preston, disse Molly. È solo una mia supposizione. Mentre eravate entrambe a Londra, lei me ne ha parlato e io ho pensato che avesse sentito dire qualcosa su di lui e su di te, Cinzia. Senza che la madre la vedesse, Cinzia alzò su Molly due occhi traboccanti di divieto e due guance imporporate dalla rabbia. Molly si interruppe immediatamente. Dopo quello sguardo rimase sorpresa dalla calma con cui Cinzia riprese quasi subito. «Beh, dopo tutto, sei solo tu che pensi che stessi alludendo a Mr. Preston, perciò forse è meglio che non parliamo più di lui. E per quanto riguarda il suo consiglio, che la mamma dovrebbe occuparsi di più di te, Miss Molly, io garantisco per la tua buona condotta. Sai io che la mamma sappiamo che tu sei l'unica persona che potrebbe commettere delle sciocchezze del genere. E ora non aggiungiamo altro. Sono venuta a dirvi che il figlietto di Hannah Brand si è ustionato e sua sorella è di sotto per chiedere delle vecchie pezze». Mrs. Gibson era sempre gentile con i poveri. Così si alzò immediatamente e si recò nel suo armadio in cerca di ciò che era stato richiesto. Cinzia si girò tranquilla verso Molly. «Molly, ti prego di non alludere mai a qualcosa tra me e Mr. Preston, né con la mamma né con nessun altro. Mai, ho una ragione per questo. Non dire mai più nulla al riguardo. Mai!» Mrs. Gibson rientrò in quel momento e Molly dovette di nuovo rinunciare a quel principio di confidenza da parte di Cinzia. E questa volta dubitava proprio che le sarebbe stato rivelato qualcosa ed era solo certa di aver fatto arrabbiare Cinzia. Ma si avvicinava il momento in cui avrebbe saputo ogni cosa.